sguardo che accarezza il mondo. Cammini piano, non vai lontano. Tra i pensieri che si fanno vento. Sei domanda e sei coraggio insieme. Costruisci sogni con le mani. Ti meravigli anche di un fiore sul ciglio. Hai dentro il fuoco e la dolcezza di chi ascolta prima ancora di parlare. Ovunque tu sarai, io sarò con te. Tra le pieghe del silenzio o dentro un sogno che ti spinge in alto, ti fa volare oltre le nuvole, dentro al mare. Non smettere mai di essere te, anche se il mondo prova a cambiarti. La felicità vive nelle piccole cose. Guarda, ascolta e ama come sai fare. Non temere di restare solo. Certe strade vanno percorse così. Ma ogni passo sarà tu e sarà già meraviglia. Porta con te la sete di scoprire, di sentire, di inventare. E se cadrai non temere, ti rialzerai con la luce negli occhi. Ovunque tu sarai, io sarò con te. Nel profumo dell'aria, nel cielo, al tramonto, nelle note di una canzone. Nei silenzi che parlano forte, continuo a sognare, a esplorare, brillare. E mettici l'anima sempre, io ci sarò, anche se non mi vedrai. Città vive nelle piccole cose, guarda, ascolta e ama come sai fare tu. Non temere di restare solo. Certe strade vanno percorse così, ma ogni passo sarà tu e sarà già meraviglia. Porta con te la sete di scoprire, di sentire, di inventare.